Tempo di sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, doppia serata europea con Inter e Napoli impegnate stasera. L'Inter alle 18, il Napoli all'ora canonica alle 20.45 e domani sera il Milan. Anzi, la serata è tripla perché poi giovedì toccherà a Udinese e Lazio in Europa League. Chissà se sarà la volta buona per provare a vincere qualche partita. Lo domando al ministro degli esteri Fabio Tavelli. Fabio, buongiorno. Buongiorno Gigi, buongiorno a tutti. Perché mi pare che in quest'anno solare 2011, come vittorie anno solare, intendo quindi sia questa parte autunnale che la parte primaverile, a vittorie non siamo messi benissimo. No, non proprio bene, anche perché dobbiamo tornare al 16 marzo, a quel gol di Pandev, la vittoria dell'Inter a Monaco contro il Bayern per trovare l'unica vittoria di questa Champions League. Ed è curioso, strano, certamente verrà migliorato questo score, ma è uno score bruttissimo, 9 sconfitte, una vittoria e 3 pareggi. Se noi consideriamo la parte primaverile della Champions, quella che si chiama, che tu abitualmente, a me la cosa piace molto, chiami la Coppa dei Campioni, certo. Dobbiamo registrare 2 sconfitte della Roma, 3 sconfitte dell'Inter, cioè le 2 con lo Schalke e quella col Bayern, una vittoria dell'Inter, un pareggio del Milan contro il Tottenham fuori e una sconfitta del Milan contro il Tottenham. A queste vanno aggiunte la partita del preliminare doppiamente persa dall'Udinese contro l'Arsenal, e ci dobbiamo mettere il pareggio di Barcellona del Milan, prestigioso ma comunque un pareggio, e la sconfitta dell'Inter col Trabzonspor e poi il pareggio del Napoli contro il Manchester City. Quindi insomma, le partite sono tante e le sconfitte sono la netta maggioranza. 9 sconfitte sono veramente tante. Sì, una vittoria, 3 pareggi, 9 sconfitte è un bilancio non da calcio italiano. È un bilancio non da calcio italiano, assolutamente non da squadra da ranking, come è noto, seppure in calo. Ma no, anche perché Gigi, spesso si dice che la colpa del ranking è dell'Europa League, ed è vero, cioè noi la quarta squadra l'abbiamo persa per colpa delle prestazioni in Europa League, e la cosa curiosa è che l'Inter comunque la sua Champions League non l'ha vinta troppi anni fa, ma l'ha vinta 2 edizioni fa, e però questo non è bastato. Ma evidentemente, se vogliamo cominciare a recuperare, bisogna che sì, in Europa League si faccia meglio, e non, insomma, diciamo che l'inizio non è stato confortante, visto che abbiamo già perso il Palermo e la Roma, ma soprattutto bisogna ricominciare a fare bene bene bene in Champions. Sì. Diciamo che l'anno 2011 per adesso è un anno sorribile, sicuramente non proprio bene, anzi molto molto molto male. Allora, il calendario: 8 partite in programma stasera, altrettante domani sera, con, mi pare, perché sei tu che mi devi orientare, mi pare un sacco di sfide inedite, perché io vedo nomi di squadre o Telul e già che un po' mi sconcertano, ecco. Sono 10 partite su 16, un totale inedito, cioè non ci sono precedenti in 10 partite su 16, ed è una cosa, intanto è un record, ed è una cosa che credo però sintetizzi bene quello che è il percorso che Michel Platini ha voluto, e che nel giro di qualche anno, perché c'è comunque voluto qualche anno, ha portato a intanto una presenza di squadre diverse, al ricambio, solite, certo. Al ricambio, mm-hmm. Alla protezione, o quantomeno al fatto di favorire un po' di più le squadre che hanno vinto il campionato. E questo, da un lato, chiaramente peggiora il prodotto qualitativo, perché è evidente che, insomma, ci sono squadre che non accrescono di granché, anzi probabilmente abbassano il livello complessivo. Però è anche vero che se non ci si vuole ridurre a diventare una Champions League di nessunissimo interesse nella prima fase, e soprattutto legata solo agli estri di squadre di 2 o 3 paesi, bisogna anche che questo percorso e questo processo qualcuno lo iniziasse. Platini l'ha fatto, e quindi credo che nel giro di 5-6 anni forse queste squadre potranno diventare competitive anche per passare dei turni e per andare agli ottavi di finale. Ecco, il vero scoglio poi è vedere quanti punti fanno queste nella fase gironi, vedere quante squadre riescono ad arrivare alla terza o alla quarta partita ancora in corsa, e questo già non è facile. E poi il giorno in cui l'Otte Lul, piuttosto che il Basilea, piuttosto che altre squadre del genere, o il Trabzonspor, andranno agli ottavi, probabilmente la rivoluzione sarà completata. Senti, che cosa abbiamo di novità, o comunque di curiosità, sulle 2 avversarie di oggi delle italiane, cioè in ordine di apparizione il CSKA di Mosca e poi il Villarreal? Ma CSKA di Mosca a me comunque ovviamente sostenendo le squadre italiane, a me preoccupa la grande forma di Doumbia, che è un giocatore che ho visto giocare una partita colossale nella gara contro il Lille. Era una partita già persa al CSKA, lui si è inventato due giocate, non da solo, ma ci ha messo molto di suo, e questo è un giocatore che a livello di centrali difensivi dell'Inter può far veramente male. Quindi la segnalazione è per lui, che duetta molto molto bene con Wagner Love, e quindi credo che l'Inter lì debba stare molto molto attento, cioè deve tenere molto bene la mediana e lasciare poco campo a loro, perché altrimenti saranno guai. Poi per il resto credo che l'Inter giocherà una partita classicamente italiana, nel senso che non andrà lì a mettere le tende nella propria tre quarti, quindi nella mediana avversaria, ma probabilmente aspetterà un po'. Il CSKA di Mosca ha assenze importanti come quella di Nesid, quella di Honda, però è una squadra abbastanza vecchiotta dietro, quindi diciamo che Pazzini e Milito, se partiranno loro come sembra, avranno la possibilità di far del male. Detto questo, è una partita certamente alla portata dell'Inter, sì. Che un Inter normale questa partita non la perde, bisogna vedere che Inter sarà però. Certo, anche perché a sua volta ci sono molte assenze, è vero, tra i russi, ma a sua volta l'Inter fa meno di Maicon, di Ranocchia, di Stankovic, di Sneijder come minimo, magari anche di Thiago Motta, insomma. Quindi ha a sua volta problemi. Il Villarreal, c'è stato ieri questo mezzo giallo sulla presenza o meno di Rossi, ma mi sembra che sia esclusa. Ma guarda Gigi, la storia di tutto questo nasce da due o tre cose. Intanto da quello che Giuseppe Rossi scrive su Twitter. La cosa curiosa di Giuseppe Rossi è che su Twitter lui utilizza Twitter in maniera quasi ossessiva, e scrive pensieri attraverso l'iPhone direttamente dallo spogliatoio appena finito l'allenamento. Vabbè, insomma, questa è una mania sua e va bene. Il problema è che lui, ad esempio, dopo la partita contro l'Athletic Bilbao ha scritto, lui scrive sempre la stessa frase, la scrive in inglese, poi la scrive in italiano e la scrive in spagnolo, e a volte la traduzione non è fedelissima, nel senso che lui ad esempio in inglese aveva scritto ginocchio ok, e però in spagnolo ha scritto la rodiglia duele, quindi il ginocchio mi fa male. Ma insomma, se è tutto ok, mi fa male, non è la stessa cosa. Insomma, la sensazione che lui ha dato domenica era di un giocatore che non avrebbe, cioè sarebbe venuto soltanto per fare un giro. Da contatti che alcuni di noi hanno in redazione con lui stesso aveva confidato di non essere ottimista, ecco, di essere abbastanza convinto di non giocare. Ieri il suo procuratore Pastorello, intervenendo al telefono da noi, aveva, non dico escluso, però insomma aveva detto che era molto difficile. Poi invece i nostri inviati sono andati a spiare l'allenamento e l'hanno visto sostanzialmente come uno in grado di giocare. La sensazione è questa. Uno in grado di giocare non vuol dire che giocherà, però è uno che può andare in panchina, uno che può essere lì, anche perché Villarreal non ha alternative, cioè si è portato soltanto Nilmar e Rossi come attaccanti, Ruben è infortunato, altri non sono stati inseriti nella lista Champions, e quindi Garrido probabilmente potrebbe mettere Nilmar dal primo minuto e tenere Rossi lì a vedere come evolve la partita. Dando un'occhiata panoramica alle altre partite, salta fuori per esempio che emergenza infortuni che riguarda per esempio il CSKA, che riguarda l'Inter, ma che più o meno coinvolge tutte le squadre, riguarda come anche il Manchester United, che ne ha fuori tanti, e tra l'altro l'ultimo a farsi male è stato Rooney, e potrebbe essere qualche problema anche di recupero a breve o a medio termine, ed è una perdita non da poco. C'è questa intervista di Ferguson alla BBC, Fabio, in cui lui ha detto quando vendi a proposito di TV, no? A proposito di strapotere televisivo, quindi che condiziona gli orari e tutto il resto, dice: quando vendi l'anima a un mostro che diffonde la Premier in 200 paesi al mondo, devi accettare anche di giocare il mercoledì sera in Europa e sabato all'ora di pranzo in campionato. È una sintesi, no? Sì, diciamo che io magari non sono proprio quello più adatto a commentarla, sì, in certo. Generale, perché comunque Ferguson è a un livello stratosferico e io non mi permetterei mai. Dico solo un paio di cose. La prima è che giocare il mercoledì e il sabato non mi sembra, cioè giocasse giovedì e sabato allora sì, mercoledì e sabato succede, cioè lo fanno anche le squadre italiane. Capitava anche no, voglio dire, ma mi sembra incredibile che prenda questo come pretesto, cioè dovrebbe parlare di quello che gli fanno fare durante il periodo natalizio, che giocano, certo, tre partite in cinque giorni. Vero anche questo. Poi io credo che Ferguson abbia tutti i diritti di parlare dall'alto di una statura che non mi permetto di contestare. Penso anche che se al posto di fare queste dichiarazioni estemporanee i protagonisti del calcio davvero sentissero come insopportabile la pressione delle televisioni e si riunissero in maniera seria e dicessero bene, siccome la televisione non la vogliamo più, benissimo, allora diciamo che le fonti dei nostri guadagni devono essere direttamente proporzionali agli utili che le società generano senza le televisioni. E quindi avrebbero gli stipendi di una persona normale e sarebbero tutti molto più sereni e felici. Cioè nel momento in cui non loro c'è stessi, dubbio. Però Ferguson l'ha detto, cioè, sì, quello che io contesto è l'anima al diavolo, cioè, non mi pare che la televisione abbia cambiato le regole del calcio, ha chiesto e ottenuto evidentemente spendendo un sacco di soldi. Appunto, in cambio di qualcosa comunque, non in certamente, cambio di qualcosa, non certamente gratis. Senti, parliamo dell'altro allenatore di Manchester Basilea. Questa è una storia curiosa perché Thurston Fink non ha un grande ricordo del Manchester United, perché lui era in campo nella famosa finale del 99, quella di Barcellona tra il Bayern di Monaco e il Manchester United, c'era Ferguson naturalmente su quella panchina, c'era in campo Ryan Giggs e c'era Thurston Fink che però era in panchina e fu messo in campo a 10 minuti dalla fine sul risultato di Bayern 1, Manchester United 0, poi vabbè, 10 minuti alla fine... Chiaro che in 10 minuti può succedere di tutto, lì di tutto accadde in 2-3 minuti dal 90esimo in poi, certo, con il gol di Sheringham e quello di Solskjaer, e quella partita fu ribaltata e fu storica perché il Manchester United vinse, il Bayern di Monaco masticò amaro, finché entrò al posto di Matteus, che poi se lo portò a fare il vice al Salisburgo, se non ricordo male, una delle tante avventure di Matteus sulla panchina, su una panchina, e questa sera lui lo ritrova, ritrova Giggs che però starà sulla panchina come lui. E insomma, è abbastanza curioso, insomma, non un ingresso fortunatissimo, a parte che non fu l'ultimo ad entrare perché entrò dopo di lui anche Salihamidžić, però insomma quella è una partita che girò in maniera clamorosa e dunque per questo storica e quindi per quello che ce la ricordiamo. Senti, un'ultima magari curiosità su allenatori di oggi è questa, torniamo ai campionati, cioè torniamo a sabato e la domenica. Allora, l'Athletic Bilbao ha 2 punti in 5 partite e insomma, non dico che già traballi la panchina, ma saldissima certamente non è, ed è la panchina di Bielsa, il primo che aveva rifiutato la panchina dell'Inter quest'estate e che rischia qui, dato che poi il ripiego, come noto, era stato su Gasperini dopo altri tentativi non andati a buon fine, anche questa è curiosa se vogliamo. Sì, è curiosa e devo dirti che Bielsa rinunciò all'Inter perché era già d'accordo col Bilbao, quindi fu di parola. Ah, certo. Non succede a tutti. Non spessissimo, no. E non sono sicuro che Bielsa, anzi io francamente non ero uno di quelli che pensava che Bielsa avrebbe portato all'Inter chissà qual beneficio. Era una scelta molto affascinante, però abbiamo visto bene che il primo che ha provato a toccare la difesa a 4, il primo che ha provato a cambiare qualcosa è durato giusto il quanto. E quindi non credo sinceramente che Bielsa fosse un allenatore adattissimo alla piazza milanese nerazzurra e al momento particolare dell'Inter. Insomma, il momento particolare dell'Inter impone un allenatore come Guardiola. Come Ranieri, poi ti spiego il lapsus. Perché... Perché il lapsus è figlio del fatto che Guardiola è ai minimi termini con Rosell e quindi con tutta probabilità potrebbe essere l'ultima stagione di Guardiola e dalla Spagna ci dicono e l'ho verificato anche stamattina che c'è più di una voce che pensa che Guardiola poi arriverà allo scontro con Rosell e la sua difesa di Laporta non è piaciuta a Rosell e lo stesso Zubizarreta in conferenza stampa l'ha confermato che tra i due non c'è tutto questo rapporto, insomma potrebbe essere l'ultimo anno di Guardiola al Barcellona e sappiamo bene quanto Moratti voglia e pensi a Guardiola per un futuro all'Inter. Senti, chiuderei con uno sguardo velocemente panoramico sulla serata di domani, intanto sul reale valore di questo avversario del Milan, che non ha questi grandi quarti di nobiltà europei, e poi più in generale sulla serata. No, i quarti di nobiltà non li ha proprio perché è una primizia totale. Io credo che il Vittoria Plzen possa essere un problema per il Milan se imporrà una gara sulla corsa. A quel punto sì, non sarà una gara facilissima perché il Milan certi ritmi li soffre e io non so se Allegri farà giocare Ibrahimovic, la sensazione è che Ibrahimovic sia abbastanza pronto e però rischiarlo contro il Vittoria Pilsen, sapendo anche comunque che il Milan non ha perso contro il Barcellona, quindi non è che è a zero. Milan ovviamente la deve vincere questa partita, però il rischio mi sembra eccessivo. Trovo che questa sia una squadra di davvero di nessunissima possibilità di fare un risultato positivo a San Siro. Può creare delle situazioni problematiche solo se indovina una gara perfetta, se il Milan la sbaglia completamente da questo punto di vista, perché la sbaglia completamente, e soprattutto se la impone sul profilo, sotto il profilo della corsa. Ecco, in questo momento il Milan non può reggere ritmi altissimi, e soprattutto il centrocampo del Milan, Seedorf e Van Bommel, vanno in grossa difficoltà se vengono sovrastati fisicamente, e questo il Vittoria Pilsen lo può fare. Che poi lo faccia, io francamente ci credo poco. Va bene, avremo tempo. Poi buone partite anche, sì, anche certo. Giovedì, perché insomma Valencia-Chelsea è una partita che mi piace moltissimo, ma anche Marsiglia-Borussia Dortmund sarei molto curioso, perché Marsiglia è partito come peggio non poteva in campionato, e quindi qualcosina dovrà dimostrare. Magari batte Barcellona, potrebbe non essere un richiamo altissimo, però anche Zenit-San Pietroburgo-Porto, anche per il fatto che si gioca alle 18 e quindi è una partita singola, secondo me un'occhiata gliela si può dare volentieri. Un minimo di richiamo. Bene, noi ci sentiamo direi giovedì per un bilancio di queste 16 partite della seconda giornata, anzi doppia serata. Con molto piacere, un abbraccio, saluti a tutti, Gigi, ciao. Grazie a Fabio Tavelli. Qualche ascoltatore reclama notizie su Italia-USA di rugby. Beh, è finita 27-10, ma è da stamane però che i notiziari puntualmente informano su questo risultato positivo che l'Italia rugby ha ottenuto, perché 27 punti sono frutto anche di 4 mete e 4 mete hanno fruttato il punto di bonus, cosa che mette l'Italia nelle condizioni migliori di giocarsi domenica tutte le sue chance contro la capolista del girone, che è l'Irlanda, e che sarà ovviamente tutt'altro avversario rispetto alla Russia battuta prima, anzi strabattuta prima, e agli Stati Uniti battuti stamane. Luca ha chiamato da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno dottor Garanzini, complimenti per la trasmissione. Una domanda telegrafica: cosa ne pensa nel 2011 di queste liste chiuse di Champions League? Squadre che ormai hanno 30 giocatori in rosa, che sono costrette a ridursi, facciamo per assurdo, 10 infortunati, quanti ne rimangono per giocare? Non si rischia di bruciare giovani come sono milanista, ma è una domanda un po' più oggettiva, di bruciare anche giovani che non hanno mai giocato in campionato. La ringrazio e complimenti ancora per la trasmissione. Grazie, ma senta, io mi spiace che non ci sia stato tempo con Fabio Tavelli di affrontare questo argomento, che avevamo grosso modo concordato sentendoci prima. Ci sono due elementi contrastanti. Io penso che una lista di 25 giocatori sia bella robusta, cioè che non siano così pochi, e che quindi insomma non stiamo parlando dei titolari più una panchina normale, cioè non stiamo parlando di 18 giocatori, non stiamo parlando di 7 in più. 25 sono due squadre abbondanti, sinceramente così poche non mi sembrano, e questo è un tipo di considerazione. Dall'altra parte, e questa era la tesi di Fabio Tavelli per esempio, è anche vero che se tu hai nel 2011, come lei stesso ha sottolineato, se tu hai a disposizione una rosa di appunto 30 giocatori, 28, vabbè, poi ci sono anche quelli che ne hanno 40, e lì dovremmo chiamare in causa altri fattori, altre valutazioni, altre riflessioni. In effetti, perché vietare loro, perché metterli in condizioni di non poter partecipare? Si può ampiamente discutere su questo, non c'è dubbio. Io prima dell'intervallo per i mercati sentirei l'impostazione che Mazzarri intende dare alla partita di stasera del Napoli. Noi potevamo fare in Europa League il turnover che ora in Champions non faccio, perché per scelta societaria, perché io e il presidente abbiamo detto: finché ci sarà la Champions, la prima priorità è la Champions, a discapito eventualmente del campionato. A me non mi condiziona nulla, la Champions non mi condiziona nulla, perché io penso così: ogni partita, in base alle risorse, agli impegni che ho, cercherò sempre nella mia testa di mettere in campo la formazione che, vista la situazione, mi dà più garanzie. E faremo così, alla fine tireremo le somme, come ho detto prima. Non pensiamo in un altro modo diverso da questo. ho pensato di mandare in onda questo frammento prima dell'intervallo, perché qualcuno di quelli già prenotati per intervenire, soprattutto se di matrice napoletana, magari prendano spunto da questo, direi, cambio di obiettivo, no? Abbastanza sorprendente, che Mazzari ha annunciato, cioè la priorità della Coppa come traguardo rispetto al campionato. Da qualche minuto, informa un'agenzia, Thomas Di Benedetto è ufficialmente il nuovo presidente della Roma e lo diventa nel giorno del 35esimo compleanno di Totti, che è stato molto festeggiato stamane a Trigoria e dintorni dalla tifoseria, che ha innalzato striscioni, cartelli e manifestazioni di giubilo assortite. Abbiamo sentito prima la vigilia di Mazzarri, di questo Napoli-Villarreal, con questa, a parer mio molto sorprendente, dichiarazione di rettifica di intenti, e cioè la Coppa dei Campioni come obiettivo principale della stagione anziché il campionato. Sentiamo adesso la vigilia di Ranieri su questa trasferta a Mosca, che tra l'altro ormai è imminente, visto che trasferta a Mosca è già in atto da tempo, perché sennò non arriverebbero più, ma intendo dire che l'Inter va in campo alle 6 del pomeriggio, e quindi ormai non manca moltissimo. Ranieri: sarà una partita difficile, impegnativa, perché lo sono tutte le squadre russe, difficili ed impegnative, per cui cercheremo prima di tutto di non commettere errori e poi portare il Cesca a farne di errori. Non è mia abitudine fare i nomi degli avversari, perché devo essere io a evidenziarlo. Diciamo che il complesso in tutto che è forte, è una squadra che sta lottando per vincere lo scudetto in Russia. Stava perdendo 2-0 a Lille, è riuscita a pareggiare al 90esimo, segno che una squadra sta bene in salute, che crede in quello che fa ed è disposta a lottare e soffrire fino all'ultimo minuto, per cui massimo rispetto per tutti i giocatori del Cesca. E questo era Ranieri. Adesso farei prima di dare spazio ai vostri interventi in diretta, farei un breve passo indietro, che poi potrebbe anche essere un passo in avanti, perché non è mica detto che l'Atalanta sia finita qui, ma certamente al momento è moralmente la capolista solitaria del campionato con 10 punti. Il fatto che poi non ne abbia 6 rende semmai ancora più incomprensibili tutte le dediche a Doni che si sono state sul campo e che continuano a esserci da parte di una, mi auguro una minoranza, ma insomma di una certa parte della tifoseria atalantina. Senza i 6 punti di penalità che appunto fermano l'Atalanta a 4 punti in classifica per le vicende sul calcio scommesse sanzionate quest'estate, l'Atalanta sarebbe per l'appunto a 10. Sentiamo la spiegazione del suo tecnico, di Colantuono. Era quello che volevamo, era quello che tutti quanti auspicavamo, però la classifica poi dice che abbiamo 4 punti in realtà e siamo in lotta con le altre squadre per toglierci, insomma, dalla bagarre retrocessione. Però siamo molto contenti, nessuno si aspettava una partenza del genere, è stata molto importante, ha dato fiducia ai ragazzi, ha ridato entusiasmo alla piazza, perché non dimentichiamoci che noi abbiamo passato, tutti noi, parlo società, parlo ambiente, tifosi, un'estate tremenda dopo un campionato stradominato, per cui è un giusto premio. All'Atalanta, ai suoi giovani ma anche ai suoi meno giovani, ha questo mix di giocatori che comunque ha profonde radici nello storico vivaio atalantino e quindi anche un merito di un vecchio, sì, perché 75 anni non sono pochi, ma insomma un vecchio maestro di giovani calciatori come Mino Favini. Giuseppe, chiamato da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno Garantini. Dica. Voglio parlarle del nuovo atteggiamento di Mazzarri rispetto alla Champions. Sì. Secondo me gli è arrivato un input dall'alto, cioè il presidente gli ha fatto cambiare strategia. Cioè, nel senso, io mi ricordo De Laurentiis subito dopo che aveva fatto la partita si era un po' lasciato andare quando aveva giocato a Manchester parlando dell'Europa, ma secondo me non credo che abbia capito com'è l'Europa, ecco. Secondo me c'è il rischio che non ha né l'uno né l'altro alla fine. Io credo che bisogna distinguere, cioè se in questa fase il Napoli vuol provare a, pur essendo inserito in un girone di ferro, cioè se il Napoli si fosse convinto, faccio per dire, a Manchester, di essere competitivo fino in fondo in questo girone e di potercela fare a qualificarsi, nonostante la presenza di Bayern, Manchester City e Villarreal, allora io credo che sia giusto provare a perseguire questo doppio obiettivo nella fase autunnale per provare a qualificarsi per gli ottavi. È anche vero però che pensare invece che proprio la coppa nel senso della coppa possa diventare l'obiettivo del Napoli quest'anno, con quel po' di squadre che ci sono in giro per il continente, mentre invece in patria non si vedono questi squadroni con cui ci si deve misurare in Europa, mi sembra appunto un cambio di obiettivo abbastanza discutibile. Ripeto, se è limitato nel tempo alla qualificazione agli ottavi, allora può avere un senso. Se è proprio addirittura in prospettiva, mi sembra un tantinello megalomane, ecco, mettiamola così. Felice dalla provincia di Campobasso, buongiorno. Buongiorno signor Gattini, è un onore parlare. Bella. Allora, ascolti, non so, prima si parlava degli infortuni delle squadre che sono molteplici in questo inizio di stagione e avevo fatto una considerazione, cioè domenica scorsa, la Juventus di questi tempi, l'anno scorso, aveva circa 12-13 infortunati, sì. Ora il campo e l'allenamento avevano dato la scusa al campo di Vinovo, penso che il campo sia lo stesso, ma con l'arrivo di Conte forse qualche cosa è cambiato, lei che ne pensa? Ma penso che non lo so, sinceramente non lo so, perché non conosco i campi di Vinovo. Adesso allora bisogna chiamare in causa i campi di Milanello, visto che ci sono 12, no? 12 infortunati al Milan. Io credo che ci siano dei cicli, degli accadimenti. Non penso che Allegri possa aver sbagliato la preparazione quest'anno e averla invece azzeccata lo scorso anno. Questo è un calcio sempre più usurante, in cui gli infortuni aumentano e addirittura si moltiplicano. La Juventus ha avuto per un anno, ma forse anche l'anno prima, se non ricordo male, ha avuto una percentuale molto molto alta di infortuni, quest'anno è diminuita. È probabile che sia merito di Conte, ma di sicuro non era colpa, allora, come lei sottolinea, non era colpa dei campi di Vinovo, perché i campi di allenamento sono rimasti gli stessi. Sentiamo che intenzioni ha il Pocio Lavezzi sul Villarreal di stasera. Quando abbiamo giocato la volta scorsa noi siamo rimasti fuori dalla UEFA, quindi non credo che sia una rivincita, è una partita in più dove sicuramente i tre punti serviranno per cercare di passare il turno, che è quello che vogliamo. È vero che da un sacco di tempo che non segno, che sono attaccante e magari devo segnare di più, però preferisco non guardare intanto a quello, sino di più alla squadra. Dopo sicuramente che sono autocritico e faccio la mia autocritica con me stesso. Io sto molto bene qua, sono contento, però non si sa mai questo. Mi sento parte del Napoli, che credo che quello è la cosa importante. Giocherà in condizioni abbastanza menomate stasera Lavezzi, probabilmente con una infiltrazione vecchia maniera per riuscire ad andare in campo, però giocherà, insomma, con 95 probabilità su 100 giocherà, e questo è un segno in più di attaccamento ai cosiddetti colori sociali. Gianluigi ha chiamato da Genova, buongiorno. Buongiorno Garanzini, premesso il complimento per la sua trasmissione e ne approfitto anche per quella del dottor Varesione, che siete secondo me le punti diamanti di Radio 24. Volevo chiedere questo: cosa un suo parere sulla politica di mercato del presidente Bezzioli, sono genuano ovviamente, non tanto per la rivoluzione, che anche quella serve opinabile di ogni anno, che però se a un certo punto viene fatta, vengono presi dei giocatori validi, niente da dire, quanto sulla vendita dei giocatori tipo Kučka e quanto può influire sul rendimento futuro della squadra, che a ottobre li compra, o l'anno precedente, e la stessa cosa era stata per Ranocchia, e poi si sa già che a gennaio passeranno ad altra squadra. Un suo parere su questo? Il mio parere è che un giorno bisognerebbe fare una bella seria inchiesta, però di quelle vere. Io non sono all'altezza, neanche per ragioni anagrafiche, ma soprattutto non ho gli strumenti economico-finanziari per capire queste cose. Bisognerebbe fare una bella serie inchiesta su tanti movimenti di calciomercato, di cosiddetto calciomercato, in entrata e in uscita, che riguardano un sacco di società, non solo italiane ma italiane in particolare, e in particolare sul dai e vai con il Sud America. Io per il momento mi fermerei qua, poi chissà che un giorno o l'altro appunto non ci sia la possibilità, non ci siano gli strumenti per approfondire un po' di più un argomento di questa natura. Allora, ricominciamo come sempre a questo punto del programma con un ripasso della storia affidato a Nicola Filippone. Sembra ieri. 27 settembre 1927. Esordisce in campionato con la maglia dell'Inter un attaccante milanese di 17 anni, destinato a una carriera folgorante. È Giuseppe Meazza che ripaga la fiducia del tecnico ungherese Arpad Weiss mettendo a segno una doppietta, con cui contribuisce al 6-1 che i nerazzurri impongono alla dominante Genova sul campo di Via Goldoni a Milano. Promosso a pieni voti, da quel giorno Meazza non uscirà più dal giro e in quella prima stagione realizzerà 12 reti. La definitiva consacrazione avverrà nel campionato successivo, quando firmerà 33 gol. Beh, non male questa data pescata da Nicola Filippone, il debutto assoluto di Meazza in Serie A. Tanti anni più tardi, mi segnala sempre Nicola Filippone, cioè nel 1970, il 27 settembre, debuttò in Serie A con un gol un altro grande giocatore, un altro grande campione del nostro calcio, cioè Roberto Bettega, che decise tra l'altro una partita, un Catania-Juventus, la partita che si è appena giocata due giorni fa, Catania-Juventus 0-1 con gol di Bettega all'esordio assoluto in Serie A. Qualche anno più tardi ancora, perché poi Nicola Filippone arricchisce sempre queste schede quotidiane, qualche anno più tardi nell'84, in questo giorno scomparve Nicolò Carosio, e cioè la voce per eccellenza del racconto, della radiocronaca prima e telecronaca poi, comunque del racconto vecchia maniera della storia del calcio italiano. Franco ha chiamato da Como, buongiorno. Buongiorno dottore. Dica. La ringrazio perché ci dà sempre l'opportunità di poter intervenire, grazie. Prego. Io l'ho chiamata, è un argomento che ogni tanto ci siamo così stuzzicati, visto la sua giusta calma nelle considerazioni che dà. Volevo veramente una sua opinione, la nuova intercettazione, altre intercettazioni. Obiettivamente ci sono stati i non tesserati, i prescritti, queste sono, così vuol dire, è la prova che comunque c'era qualcosa di più e che la Juventus è stata veramente comunque l'unica vittima, posso dire, sentendo queste interviste, ingiustamente ha pagato una colpa lei e noi tifosi più grande di quello che è. Volevo sentire una sua opinione, grazie. Rimane assolutamente al contrario la mia opinione, anzi anche quest'ultimo documento bomba sfoderato stamattina dai legali di Moggi e da Moggi stesso al processo mi sembrano l'ennesima conferma invece di come ci fosse una cupola strutturata per avvantaggiare una squadra, come si vedeva d'altra parte all'epoca e si ricavava non dalle intercettazioni ma dagli arbitraggi e dai risultati, e come ogni tanto qualcuno che faceva parte di quell'organizzazione, come purtroppo accadeva per i designatori, in questo caso Bergamo, si dovesse addirittura preoccupare di non dare troppo nell'occhio, perché forse qualcuno aveva un tantinello esagerato in quegli anni. Poi possiamo fare tutte le riletture critiche della storia che vogliamo, possiamo tentarle, ecco, questo sì, possiamo pensare che questo sia soltanto un paese di vittime di ingiustizie processuali, come è il caso di Doni, per esempio, no? Potremmo fare anche esempi leggermente più in alto, per carità. Oppure possiamo pensare, oppure c'è un'altra parte di diciamo pure di italiani, in questo caso di tifosi, di appassionati, ma insomma forse anche di cittadini, che pensano invece che quando si fanno delle indagini, si arriva ad un processo e si producono documentazioni, può anche darsi che chi c'è rimasto dentro sia davvero colpevole. Io sono sempre di questa, sempre fino a prova contraria, ma prova, sono di questa idea. E quindi ecco perché non ho minimamente cambiato idea sulla sentenza di allora. Poi lei ha anche detto che fu la Juventus l'unica a pagare, non mi risulta nel modo più assoluto. La Juventus fu quella che pagò un prezzo più caro perché era la più pesantemente implicata, ma pagarono un prezzo anche altre società che furono penalizzate a suo tempo. Poi ci fu la farsa dell'assegnazione dello scudetto 2006 all'Inter, e soprattutto ci fu la doppia farsa della società Inter che lo accettò sbagliando due volte. Ma tutto questo nulla ha a che vedere con le colpe e le responsabilità pregresse documentate ormai a iosa, e su cui sinceramente mi sembra che ogni forma di revisionismo sia un tantinello improbabile a questo punto. Giuseppe da Verona, buongiorno. Caro Galanzini, buongiorno e complimenti per la stima. No, a questo punto, guardi, potrei solo salutarla in quanto ci siamo letti nel pensiero. Cioè, il mio intervento era proprio a riguardo, relativamente all'intercettazione di ieri, posto che a mio avviso avevano, io sono juventino, premetto per non dare adito a... posto che appunto tutti avevano a mio avviso le mani in pasta, vedi anche la famosa telefonata di Collina all'allora Meani relativamente dicendogli sei una potenza, sei più importante del Presidente della Repubblica perché era riuscito a far avere i due disegnatori lì e Guardaline e Ciro Soreri. Detto questo però, come diceva lei giustamente poc'anzi, quella intercettazione di Bergamo di Carraro a Bergamo denota proprio il fatto che qualora Carraro dice attenzione, mi raccomando, succede un casino, non continuiamo, non favoriamo la Juve, mi raccomando, succede un casino, vuol dire, stiamo parlando del 28 di novembre, che fino ad allora, probabilmente tre mesi, la mia Juve purtroppo di favori ne aveva già ottenuti. Cosa ne pensa? Ma so già cosa ne pensa perché l'ha appena detto. Ma la ringrazio e saluto. Grazie a lei Giuseppe. Adesso naturalmente ci sarà, perché poi ci sono i fedelissimi dei blog, no? Dei blog inquinati, intendo, insomma, che adesso diranno: ah, ecco, vedi, Radio 24 addirittura fanno intervenire degli ascoltatori tarocco spacciandoli per juventino. Io sinceramente, Giuseppe, non posso che a parte garantire il fatto che lei ha chiesto di intervenire, e di questo risponde la centralinista, la nostra Rosa, che è la Corte di Cassazione da questo punto di vista, ma è di una elementare lettura questo, ma come è di una elementare lettura la famosa prova, altro che il presunto colpo di scena di oggi o di stamane, no? Fermo restando che poi magari domani o tra cent'anni ne salterà fuori uno davvero che cambierà le carte in tavola. Questo non cambia assolutamente nulla, perché per me la prova provata di tutta questa vicenda è nel comportamento degli imputati o dei colpevoli di allora, facciamo, o dei presunti colpevoli di allora. E cioè c'era un signore che di professione faceva il manager, che è sparito dalla circolazione, che semplicemente, come quando ti va male, no? Lei ha più sentito parlare di Antonio Giraudo? No, a me non risulta, nel mondo del calcio intendo. Antonio Giraudo ha patteggiato un concordato, no? Come si usa in questi casi, è uscito dal mondo del calcio, evidentemente non ha ritenuto di dover andare avanti su questa china penosa, a parol mio, che invece il suo allora dipendente sta continuando a perseguire, e sono scelte. Io credo che meriti molto, ma molto più rispetto la scelta che fece a suo tempo Antonio Giraudo, che era del Toro, tra l'altro, perché poi questo ogni tanto passa, no? Oggi si riscrivono le storie, cioè Antonio Giraudo era un noto e appassionato tifoso del Torino, che un giorno per ragioni professionali si trovò a gestire, non a guidare, ma a gestire la Juventus. Beh, insomma, diciamo che ne è uscito meglio di altri da questa bruttissima vicenda, anzi ne è uscito a parer mio abbastanza bene. Ancora un ascoltatore velocemente, Stefano da Modena, buongiorno. Buongiorno, tifoso del Bologna. Sì. Io volevo starnotare una cosa, come ormai l'imbarbarimento della stampa sportiva, adesso un termine un po' forte, però oramai si parla solamente di tre squadre, Juve, Inter e Milan, e siamo arrivati al paradosso che l'Inter gioca contro il Bologna, la prima domanda che fanno all'allenatore del Bologna è come ha visto l'Inter. Quindi per uno che è veramente amante dello sport, che ritiene lo sport una cosa con un minimo di cultura e di senso, volevo dire che da come è attizzato il calcio in Italia, oggi è una cosa scandalosa, e questo sarà un motivo anche perché gli stadi ormai sono deserti, perché o tieni per queste tre squadre oppure non conti nulla. Perché Stefano, qualcuno le impedisce di guardarsi la partita del suo Bologna? Io non capisco, cioè è sempre stato così, Inter, Milan e Juventus si sono sempre divise il 70% circa, della, dato che rappresentano grosso modo il 60-70% della tifoseria italiana nazionale complessiva, si sono sempre accaparrate più o meno in proporzione anche allo stesso spazio di attenzione dal punto di vista mediatico. Una volta forse faceva un po' meno effetto perché c'erano un po' meno strumenti, cioè un po' meno, vabbè, a parte le televisioni, ma c'è un po' meno radio, no, giornali c'erano anche di più, se è per quello. E soltanto salendo alla ribalta e vincendo un campionato come nel 64 in Bologna, per esempio, o rischiando di vincerlo, si riusciva ad ottenere per qualche tempo quasi una parità di trattamento. Mauro De Angeli in regia, Franco Piantanida in redazione. Il tempo è scaduto anche oggi. Buon pomeriggio.